Giorno in Technicolor, ho il cuore in paradiso e sento il paradiso in cuore. A tu per tu fantastichiamo nel cielo blu, scarabocchiamo, t'amo, fiori d'arancio per un sogno d'amor. Ho il cuore in paradiso e sento il paradiso in cuore.